3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Cambi 6, sono cambi 6, cambi 6, cambi 6. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Spiegati senso, spiegati senso, cambio. Non c'è ascolto, ho bisogno, il segnale è 8, sì. Quanto è il segnale? Ora, prova, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi. Facendo con microfono male. Adesso lo attacco l'altro microfono, ti fai cazzo, aspetta. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Con questo microfono meglio sto scendo. Dopo, dopo. Mi senti, Giuseppe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sì, cercano 9, 9, 4, 9, 3, 3. La radio buona è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora, ora. Aspetta che spengo il telefono, dai. Bene, bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. A voi ti ascolto. Cambio. Ora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tocco. Siamo bene, sto scendendo come si deve a me. Ricordate che il microfono normale non è ficcato, quindi avvicinate la bocca al microfono, come faccio io. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, cambio. Sto scendo bene, no, è perfetto. Tanto sa cosa lo faremo con questo, ce lo sai. Questo qua è ZX 40 Pro, è così. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Portate questa, antenna, poi se l'hai messa in basso in alto, portate questa. Almeno puoi modulare adesso, come ci deve. Scappa. Ciu, ciu. Aspetta un attimo. Dove siamo su quattro? No, su dieci. Attenzione, quell'agricoltore si ascolta doppio rumo, va. Ehi, attenzione.